il 7 Santiago 8 radio 5 telefonicamente, praticamente si sente abbastanza bene e sento un po' tutti bene. Ok, Riccardino, per te il segnale 5 radio 4, a te Riccardino. Ah, ho capito, va bene, grazie mille. Comunque attento Gulliver, lavoro sono un'antenna Sirio Blizzard 2700 e poi ho l'apparato è un Colt Black Shadow. Fantastico, bravo. Un attimo giù. E Gulliver, ti rilancio l'amico Giulio, anche lui è di qua di Sassari e probabilmente è in condizioni più favorevoli. Avanti Giulio per l'amico Gulliver dalla provincia di Lecce. Ok, ciao Roberto, ciao Gulliver. No, stavo a vedere il volume fuori posizione, stavo appunto vedendo se usciva niente in particolare. Ciao Gulliver, se mi ascolti. Aspetta, no, non sto andando bene, va bene, dai, conferma. Non lo so, diciamo ti ascolto abbastanza bene, dai, non ho fatto delle operazioni di controllo più attento, comunque ti ascolto abbastanza bene, forse un po' amplificata. Aspetta, rilanciamo a Gulliver se ti ha ascoltato in lontananza. Avanti Gulliver. Bene, cara, ascolto tutti telefonicamente, anche l'altro amico che è appena entrato, Santiago 7 con QSB fino a 3, radio 4, forse un po' troppo preamplificata. Avanti Roberto. Sì, no, diciamo vedo che c'è un po' di corsa di adesso, il segnale si sta abbassando, ma hai fatto picchi di 9 più 15, adesso sento un all'8, il segnale però la radio è sempre forte e chiara, la 5 è perfetta. Ok, vediamo, c'è Sandro Conan da Alghero, vediamo se ti ascolta, e avanti Sandro per l'amico di della zona di Lecce. Ok, Conan, riprendete la tua Angelino per l'amico Gulliver. Buongiorno Angelino, no, avevo un problemino, credo di averlo risolto adesso. Sì, ciao Gulliver, ben ascoltato, Giulio da Sassari, Sardegna. Avanti Roberto, fai girare, ciao Riccardino anche. Giulio, comunque volevo dire a Gulliver che arriva all'ossetto anche lui fortissimo, visto che mi hai dato rapporto il segnale, ricambio, e tu arrivi Santiago 8, radio 5. Non so, ci sei ancora Gulliver? Forse ci ho parlato sola. Ci sei ancora Gulliver? Non c'è più comparazione. A momenti entra, esce, va bene. No, io ho capito fosse qua di Sassari, qualcuno dei nostri, perché arrivava fortissimo, è entrato, ha detto break, ho detto così forte. Molto, molto forte il segnale. Vediamo, ultimo passaggio per Gulliver, così lo salutiamo. Avanti Gulliver, se ci sei ancora, così salutiamo. Scomparso la preparazione. Ok, ti rilancio Gianni Angelino, che ha sistemato l'antenna, e vediamo un po' come lo occupi. Avanti Angelino per Giulio. Ok, ciao Angelino, ben ascoltato, come va? Bene, giù, bene, giù, dai, va tutti a bene. Sì, stiamo ascoltando la tua modulazione, poco fa era un pochino più stata, ma è trovato bene anche a tutti, però per il momento non era più. Sta passando, perché avevo un problemino che non avevo regolato bene, per cui adesso dovrebbe andare meglio, non lo so, me lo dite voi, me lo dite, ma comunque suppongo di sì, vedendo qua lo smitter. Vai Robè. Ok, mi pare che sia entrato Gulliver, avanti Gulliver. Sì, avanti il break. C'è anche Eugenio in lontananza, si sente. Avanti, aspetta, Roberto da Alghero, così sbaglio. No, io ti ascolto Santiago 8, radio quasi 5, tendente al 5, dai, 4-5, purtroppo come hai detto tu c'è molta propagazione, oggi si sovrappongono tanti segnali. Oh, ci facciamo un attimino di bianco, mi sembra Eugenio, avanti Eugenio, Eugenio ci sei? Nulla, forse era col furgone, dai, non l'abbiamo sentito. Allora sei in compagnia Roberto mio, di, come si chiama, di Angelino, Giulio e Riccardino, ti rilancio a Riccardino che forse è più lontano dalle tue parti e poi riprenderai il mic Giulio. Avanti Riccardino per Roberto, se l'hai ascoltato. Sì, ciao Roberto, mi ha ascoltato l'ascolto del PRM, come hai detto ascolti in pochi, vediamo se a me mi ascolti. Buongiorno, buongiorno Roberto, mi allontano Roberto. Aspetta, che ti rilascio un attimino per Roberto, giù. No, Roberto non lo sento. Mi allontano, dai, continuate un attimo che mi allontano. E a dopo, Giulio, dai, non c'è problema. Visto, considerando che... Aspetta, dammi un rapporto, Roberto, perché Angelino mi ascolta molto più forte di quanto mi puoi ascoltare tu. Un rapporto con questa antenna e poi con Mutola Multibanda, mi dici la differenza. No, scusa Robè, guardami questo segnale con questa radio, cioè con questa antenna, e mi dai un rapporto, e poi cambio, ti commuto l'antenna e mi dici cosa cambia. Questa è la multibanda, cambia di molto il segnale, quindi confermi da passo da 8, quanto mi dai di segnale tu con questo? Ok, dai, comunque qualcosa va, dai, meglio di niente, considerando che un'antenna con una larghezza di banda abbastanza estesa rispetto alla mantova, già va bene, dai, a me interessa va per le HF, per ricevere le HF, di lì ho visto ci sono dei grandissimi guadagni di resa, diciamo, rispetto alla mantova, da 7 a 9 sono passati i segnali, qua perdo qualcosina, però mi arrangio con la mantova, tanto non è fatta per queste antenne, per queste frequenze. Ok, vediamo Riccardino, ti rilancio il mic, mi date un attimino di bianco, arrivo tra poco io, avanti Riccardino. Va bene, Roberto. Io comunque dopo sarei curioso se c'è ancora Roberto oppure Angelino a fare la prova andando all'argentiera. No, adesso sono ancora a casa, sono un po' parto. Comunque io sono a piedi qui a casa. Io. No, Roberto, anche io. Come non so, io l'ho ascoltato. Angeli, prova. Stiamo parlando di Sandro di Alghero. Sembra la laterale. Oh Roberto. Di verità. Comunque adesso mi è girato così al camera a parlare oggi. Ma ti volevo chiedere, ma tu intanto che sistemi l'altro, che devi prepararlo, usi quell'altro piccolo che c'hai? Di cosa stai parlando? Non ho capito. Adesso mi è venuto in mente il camper, ti volevo chiedere, ma tu intanto che sistemi quello che hai in officina di camper, usi quello piccolo? Sto sistemando le ultime cose del piccolo, il grande è già operativo. Ah, il grande è già operativo? Il grande lo uso sempre io, me ne tengo tutti e due, e questo lo sto facendo per quando devo andare in qualche posto che non mi permettono di entrare col camper grande, siccome questo è un mezzo speciale. Ah, ho capito, no, avevo capito il contrario, che quello che stavi preparando era quello grande e poi ne avevi un altro più piccolo. No, l'altro è 6 posti, l'altro è grande, grande, relativamente grande, non è enorme, diciamo un camper 6 posti, un mansardato, questo invece 2 posti e mezzo, diciamo 3 posti, dai, con 2 più 1 di fortuna. Ok, una domanda Angeli, ma è Sandro in movimento? Perché al momento era forte e poi alla fine era in mezzo al QRM e non riuscivo a capire quello che dicevo. Adesso che era in barra mobile. Ah, allora per quello, infatti non so. Ma non c'è più Angelino adesso? Ah, scusa, non avevo capito. Ok, ricambiate, devi andare tu fuori? Più o meno alle 12, l'una praticamente, perché devo aspettare che torni mamma dal lavoro, che oggi le hanno messo il sabato. Ah, tua mamma lavora anche di sabato? Ma una volta ogni due mesi. Ah, ok. Cosa volevo dire? Mandami un messaggio su WhatsApp quando stai mobile, così volevo vedere se no dove riesco a prenderti. E dimmi una cosa, con che baracchino stai andando? Ma quando vado in barra mobile? Col campo. Ne ho due, ho un Midland 80 canali piccolino proprio, e poi ho un SBE SA 2800. Perché due? Cioè due baracchini nel campo? Per sicurezza, io non posso stare senza radio, ne ho due dentro la macchina e due dentro il camper. Micca, che ora c'è la stazione sperimentale di Marconi. Dai, mettile uno che funzioni bene, quello magari un po' più patente, e vediamo un po' come ti ascoltiamo, dai, e sino a quando ci prendi. Ok, vai Ruby, prenditi il mic. Comunque quello che ho dentro, alla fine, scusatemi, è il tornado in macchina e poi me l'hanno regalato così per... Non so se l'hai conosciuto, il Senco sui canali, che invece che i numeri aveva dalla A alla S ed è proprio piccolino. Sì, vabbè, ma non metto le macchine, uso il tornado, dai, che va bene, oppure il Midland. Aspetta, ho rilanciato a Roberto, ci sei ancora Roberto? Di radio comunque mi tiri fuori bene, Robby, perché l'importante è quello. Tu mi avevi detto c'è un'antenna non idonea per questo tipo di frequenze, diciamo una larga banda. No, sei Santiago 8 qua, radio tenete al 5, dai, in certi passaggi è 5, se no appena di QRM arriva, perché c'è molto disturbo oggi, cioè, però ti ascolto perfettamente. Angelino naturalmente è un po' più forte perché c'ha un'antenna più performante, probabilmente in situazioni anche di posizione un pochettino più favorevole, comunque ti tiro forte e chiari tutti e due. Ok, direi lasciamo un attimino di bianco per se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione 10, chi vuole entrare, un attimino. Vabbè, ho notato che hai cambiato suoneria di che cosa? Chi era? Tu sai, la suoneria diversa, se dico così. Ma io la fa del telefono? Mi è sembrato. No, è sempre quella, la suoneria delle telefonate è sempre quella. Poi c'ho una suoneria per i messaggi e una suoneria per WhatsApp, diciamo le classiche che ce l'hanno più o meno tutti, però per il telefono poca gente ce l'ha, solo io, e poi l'ho data a un'altra persona, l'ho passata. Ah no, perché di solito quando si manda un messaggio sul telefono, sempre quando c'è in radio si sente sempre una suoneria diversa. No, è sempre la sirena e basta, quella lì è suoneria, stiamo parlando di per ricevere le telefonate, mentre per WhatsApp è quella che molti hanno, simile, che l'ho un po' modificata, e poi gli SMS, il classico beep, quello che hanno tutti. Ah, ho capito. Ok, non è entrato nessuno, per cui Roberto riprenditi la situazione microfonica, avanti a te. Forse non c'è più Roberto. Ma la scrivania, Riccardi, dove l'hai messa? L'hai lasciata fuori o te la stai già iniziando a preparare? No, l'ho lasciata fuori, devo vedere, perché adesso vedo, perché se sai quello che ti avevi promessa, quella più grande che va meglio, vediamo. Più grande? No, è più piccola l'altra, è più stretta e più corta, magari può essere più comoda perché è piccolina, più maneggevole. Quella la grande l'ho data a te, non all'altra persona. Ah, perché ho visto che adesso mi devo comprare anche la gomma per metterla, e mi sono tutto altro vedo. Andare dai cinesi, ce l'hanno a rotoli da Brickoman, forse dai cinesi è dove costa meno di tutti. Te li prendi le misure, poi te la ritagli, gliela appoggi sopra, se ci vuoi mettere un po' di busti, che ce lo metti, se no lasci col peso suo stesso, ti metti dei pesi e rimane tipo una tovaglia, te la fai proprio a filo, perfetto. E poi fai come ti ho detto io, ti fai quelle mensoline, te le prendi di tutte le misure, se no se sono troppo piccole, ci sono tutte anche di 2 metri, ci sono da Brickoman con i bordi smussati, ci sono in tanti colori, metti i piedini quelli quadrati, li avviti sotto e ti fai i ripiani, ci metti, io ne ho 1, 2, 3, 4 ripiani, cioè. No, ho capito, e adesso la voglio sistemare, spero, c'è qualcuno, perché io adesso devo aiutare a babbo, perché devo sistemare bene la stessa, perché è stato invisibile del frigorifero, lo devo sistemare, vado ad aiutarlo. E ci sentiamo più tardi, ancora se sono qui o in barra mobile. Ok, dai, buon viaggio, dai, buon tutto, cercate di divertirvi e fate da bravi. Ciao Riccardo, saluto a tuo babbo, tua mamma e a tua sorellina. Ciao ciao. Ok, ciao Roberto, ciao a tutti gli eventuali ascoltori e ci sentiamo più tardi. Roberto, manda la foto alla cellula comunque adesso. Ehi, ok, dai, poi mandami magari un messaggio, se ho 5 minuti di tempo voglio vedere come ti ascolto in movimento con quella, con quel macchinario, dai. Ok, Roberto D'Alghero, avanzate il mic. Oh, uno dietro l'altro sono le modulazioni, qua uno si scavalca all'altro, poi ci sono quelli in banda laterale che stanno spingendo un po' di più. Com'è il movimento giù ad Alghero, Roberto? Domani ci sarà un sacco di gente e lì ho visto già qualcuno, c'è gente, permettono di andarci a fare il bagno o ancora tutto bloccato? È giusto che si riprenda, dai, finiamolo con questo discorso inutile, che hanno dato tante di quelle preoccupazioni che non erano necessarie e così aggravare la situazione, dai. Ok, vediamo un pochettino qua sul 10, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, attenzione canale 10 che vuole entrare. Hola, non c'è nessuno, dai, riprendi tu Roberto. Sì, c'è anche l'FM, se vuoi. Ehi. Quanto da 25, 40, quanto ne ti? No, no, già è buono lo stesso, dai. C'è una bella radio, niente da dire. Mi piace anche esteticamente, è una bella radio, ma c'è anche i 6 metri con la radio. Ma i 6 metri è un Ups in dotazione standard su quella radio. sì, no, bellissimo, a me piace da morire, solo che costa un'esorbità, 9,90, l'hai visto il nuovo da Kenwood, l'ultimo apparato che ha fatto, è uno spettacolo. E 9,90 l'ha fatto per contrastare il 17.008 della Icom, il coso, e quello 9.000 della Iaesu, e per certi versi è anche meglio, diciamo se la giocano tutti, però come ricevitore ho visto delle prove comparative fatte da laboratori, un peruzzino meglio andava, poi è spettacolare, c'ha un display tutto touch screen, ti puoi mettere, come si chiama, puoi mettere la pagina che vuoi tu, nel senso se lo vuoi analogico ad ago, vabbè, sempre riprodotto il display, oppure ti vuoi mettere le barre, oppure ti puoi fare analizzato rispetto, ecco, c'ha diciamo un monitor interno e puoi utilizzare il monitor, ti puoi mettere la pagina che vuoi tu, per dire se ti piace un apparato stile vintage ti mette quella pagina, oppure vuoi fartelo più moderno di nuova generazione, è bello anche per quello. Magari mi dirai che c'ha un sacco di giochettini, di cose sotto menu, pagine, non è detto che sia assolutamente funzionale e intuitivo da usare, però esteticamente è uno spettacolo. Ma a quelli vedo, diciamo, tra Icom, Iaesu e Kenwood, uno magari c'ha qualcosina da una parte e pecca un po' dall'altra, ma stiamo parlando di apparati di grandissime prestazioni eccetera, per andare oltre quello devi spendere 5 volte tanto, ma devi andare su apparati completamente diversi e non amatoriali, devi andare su cose professionali da laboratorio, comunque sono belli. Kenwood poi quando si mette a fare qualcosa magari non te la fa continuamente come la fa la Icom, che si fa la guerra con la Iaesu, ogni anno tirano fuori un apparato uno e l'altro, però quando togli un apparato la Kenwood è sempre un ottimo prodotto. No, è bello, non l'ho mai visto nel senso funzionale, però lo conosco, almeno esteticamente ho visto un bellissimo apparato, e poi c'ha tutto, non manca niente, è un apparato nel senso molto funzionale eccetera, vedo che mi sembra abbastanza intuitivo anche come tazzini e cose, non vedo grosse tante cose, troppe manopoline e cose che molte volte, cavolo, ti perdi poi. E a solo sperare che non ci siano dei difetti congeniti come molti apparati, compreso il 440 e altri tipi di apparati, l'850, 950, molte volte rimangono fermi. L'altro giorno un amico qua proprio in frequenza, l'850 era qualche anno che non lo utilizzava, da buttare via, è diventato completamente sordo, il display, mancano tutti i coso, i caratteri, non riesce a vedere niente. Lo stesso lo Iaesu ha dato problemi, mentre vedi apparati, per fare un esempio economico, il 140 che è un poco più di un baracchino, lo lasci 20 anni fermo, accendi e parte, infatti lui dice è stato usando il 140, anzi il 80, non il 140, e dice e questo la fermo 20 anni, l'ho acceso e funziona, l'altro spento da un paio d'anni, non funziona più, lo Iaesu idem. Infatti ci sono degli apparati vari, lo studio vari dell'alimentazione del VFO molte volte non è stato fatto al 100% i collaudi vari per metterlo subito in commercio, come le macchine molte volte fanno dei modelli nuovi e poi magari si trova il difetto che nell'arco degli anni viene modificato. Io te lo dico perché sono nel campo e mi capitano delle macchine che hanno dei difetti già da come sono usciti e poi col tempo questo difetto viene corretto eccetera. 440 c'è quel difetto lo stesso dei condensatori, che starci un po' attenti, se rimane troppo tempo spento, però che non cambi tutto il set del condensatore, li metti quelli nuovi di qualità, diciamo, superiore, magari di tolleranze leggermente migliori, eccetera. Il 140 a me non piace, io ce li ho tutti e due, però c'è quello di buono, che è indistruttibile, però è poco funzionale con tutti quegli sliderini piccolini, se devi aumentare la potenza, regolare il mic gain, poi se devi stare attento alla polvere, mentre 440 è un po' più comodo perché c'è i potenziometri rotativi, da quel punto di vista è un po' meglio e anche in ricezione è un po' meglio, però diciamo insomma abbastanza simili come apparati. Sì, no, ma ci sono anche degli studi per farle difettare apposta. Io ho assistito a dei seminari importanti, di università importanti, proprio di studi di rottura dei materiali dopo un certo periodo di tempo, in modo che la casa ci guadagni con la vendita del ricambio. Come va fuori dal limite della garanzia, loro ti si rompe con l'alza cristallo, con la serratura, con l'interruttore, eccetera, eccetera, e se questo sta cambiando. Perché il guadagno della casa costruttrice dalla vendita di una macchina è molto, molto limitato. Infatti, la gente è convinta chissà cosa guadagna la Fiat, guadagna, siamo intorno dagli 8 ai 10% del costo di produzione, oltre tutte le spese pubblicitarie, innovazioni eccetera, a fine anno quello loro guadagnano netto da ricambi di media al 300%, poi non parliamo di attrezzature specifiche dove brevettano quella chiave specifica, quella DIMA per fare la distribuzione specifica, di lì guadagnano 1000 per 1000 di più del coso, perché c'hanno il brevetto, dura 4 anni, poi nessuno lo può copiare, sei obbligato a prenderti quel kit di coso per fasature eccetera eccetera. Una domanda, tu di cosa ti occupi, se lo vuoi dire qua in frequenza o genericamente naturalmente? Ma sei andato in pensione adesso, non fai più parte del ministero? Anche coso, non so se l'ha ascoltato, penso di no, perché c'è un segnale basso, Nicola, come si chiama, Lupo Grigio, lo stesso, lui era nell'arma, si occupava di punti e apparati radio di tutta la provincia di Sassari, era responsabile di questi sistemi di trasmissione loro. Ok, ma tu come civile sei, non sei come, come si chiama, militare? No, io sono molto appassionato di tutti di frequenza, eccetera, non sono postazioni, ogni tanto vado a visitare, normalmente di altre cose però, non di questo tipo di bande. Ok, no, ultimamente c'era bella, sono salito alla vista, non so se sei salito da poco all'imbara, cosa hanno distrutto con la stazione americana, allucinante, cosa c'erano di attrezzature, quando vai di lì sembri che sei in un deserto nucleare, tutto distrutto. Sì, no, sono tutta la storia di quella cosa lì, ma se vai è un peccato, hanno distrutto tutto, se ne hanno staccato anche gli impianti elettrici sottointerrati, hanno spaccato tutto, la centrale, guarda, io sono andato un paio di anni fa ma mi sono messo le mani in testa, ed è anche peggio adesso, peccato considerando cosa c'era di attrezzature di lì, e poi per avvicinarti ci volevano, cacchio, non devi stare a 500 metri, se no ti sparava. C'è una bella postazione, non so se la conosci, quella che c'è su, sopra, proprio in cima, punta, non mi ricordo come si chiama, ma in cima all'imbara, al punto più alto, una bella stazione della NATO, hanno fatto nuova di lì. Io da tanti anni, questo CB è un divertimento, ma io altre cose facevo di altri generi di cose, dai. Ok, no, dispiace perché vedi una cosa da fantascienza, diciamo, perché una stazione del genere, nel Mediterraneo penso ce ne siano ben poche, ce ne hanno due o tre in Italia di collegamenti, che sono collegamenti, ormai ci sono i satelliti, è stato tutto superato, però all'epoca non c'era la guerra fredda, era un punto strategico, quello e altre, ce n'è uno in Toscana, mi sembra un altro, non mi ricordo dove, su in Alta Italia, tre o forse in Sicilia, adesso non mi ricordo. Tre punti strategici, ma solo di apparecchiature, chissà cosa cavolo di soldi che c'era. E dispiace perché l'hanno mollato alla cosa, prima al Ministero della Difesa italiano, quello l'ha mollato e l'ha lasciata alla regione, e quello morirà così, sarà una cosa incompiuta, buttata, perché potevano anche un po' sistemarlo, ti dirai ci vorranno soldi e fare anche visite studentesche dove per dire, ci sono degli istituti professionali di telecomunicazioni, di informatica, e far vedere com'erano le tecnologie negli anni 70, 80, sino agli anni 90, diciamo, era operativa, fino agli anni 90 quella stazione era operativa, poi purtroppo fa impressione vedere quelle parabole che sono da paura, delle cose da... è quello normale, dai, i saldi difficilmente si dimenticano della propria terra, ma anche bloccati in facevi, oltre questi, diciamo, questi sistemi particolari, anche stazioni bloccati. No, vabbè, Radio Maria come copertura penso ce ne siamo ben poche, solo le grossi, i grossi network nazionali, no? Io soprattutto sono informato su Radio Broadcasting, che è sempre stata la mia passione, ho tanti amici, ho fatto una piccola radio anche io, costruzione di apparati, di antenne, di poli ripiegati, diciamo ho fatto tutto da niente, da ragazzino ho fatto un po' di tutto, sono molto informato, mi tengo sempre aggiornato su tutte le postazioni, so di che antenne cosa stiamo parlando, di cosa usano, eccetera eccetera. Radio Maria già si fa sentire, dai, questa antenna avrà una quindicina di punti ripetitori, anche troppi diciamo per il numero degli ascoltatori che ci hanno. Aspetta la Spagna, provo a dirne qualcuna tua personale? Sì, a voi. Sì, sì, anche con un punto strategico, così lo passando nei limiti del circondario di Sassari, in un'ottima posizione come copertura, perché c'è un bel campo, un bacino di copertura molto, molto vasto. No, io sto cercando qualcuno, invece noi abbiamo una possibilità di montare un traliccio non nostro, nel senso a questi operatori telefonici, una posizione, noi abbiamo una struttura, la mia famiglia, dove si può mettere tranquillamente un traliccio di qualunque dimensione, perché il territorio è grande, per un'ottima copertura qua nel circondario di Sassari, parliamo nell'agro, dove ci sono altri tipi di cose, di strutture, non diciamo qua. E purtroppo non si trova nessuno, la persona che c'ha il contatto con questi operatori vuole il 50% del guadagno, della rendita, te lo lascia perdere. No, no, non sto cercando, io la do la postazione per la telefonia, siccome di lì è una zona perfetta per coprire un territorio enorme, stiamo parlando di punti, dai, per essere più precisi, abbiamo delle possibilità, la mia famiglia, di spazi per installare antenne di qualunque dimensioni e senza ostacoli, perché è un territorio nostro, di proprietà, sono 3 ettari abbondanti, e dove si può mettere un'antenna di qualunque dimensione, c'è una copertura enorme sia per Sassari e per zone limitrofe. Vabbè, su linea cellulare non è che hanno copertura enorme, però puoi fare un bel lavoro, nel senso. No, io non ho contattato nessuno, ho contattato una persona tramite un amico a me, che lui se lo fa per lavoro, questo va in giro, è stipendiato di questi network, questi gestori grossi, e gli dicono cercami un punto per dire, ti posso dire, alla Landriga, ad Alghero, non lo so dove cerca, lui contatta la persona e ti dice oh, quanto lo vendi questo pezzo o quanto lo affitti, e gli danno una percentuale. Però siccome questo è un po' furbacchione, quando ha contattato a noi dice io ti trovo la persona che ti fa mettere il ponte, però quando ti danno 1000 euro al mese, di questi 1000 me ne dai 500 a me, detto, no, lascia perdere, le ho detto. Assolutamente, infatti ho detto adesso è venuto il discorso, noi stiamo aspettando la persona giusta al momento giusto, non so se c'è qualche contatto, eventualmente se c'è possibilità tu di quello, perché avevo contattato un altro dalla Telecom, lo stesso, sì vedo un po', io chiedo, anche se non era un campo, questo era un dirigente, mi ha detto non è il mio campo perché lui era sulle linee fisse, eccetera, però mi ha detto posso chiedere, poi lasciato perdere, probabilmente non ha chiesto o non gliene è, non lo so. Quest'altro faceva soprattutto Vodafone, perché adesso ci sono un sacco di gestori nuovi, vogliono entrare sul mercato, da iniziare da Iliad eccetera eccetera, anche se si sta per il momento affidando a Wind e a Tre, però vuole entrare con i propri punti. Infatti detto, se trovo il contatto giusto magari poi si vedrà con la persona, magari un premio si può dare sicuramente, ma non un fisso come voleva questo. Questo territorio vuoi mettere i ponti, parli, le cellule ripetitori? No, no, non c'entra niente i carabinieri, stiamo parlando di punti, lo conosci tu di Sassari, parliamo per essere vaghi, Ocean di Sassari, la metro, un po' più avanti, diciamo nella zona industriale di lì, un po' più avanti nella zona industriale ci sono dei territori, diciamo, non dico in particolare, però abbiamo delle grandissime possibilità di montare. Io sono sicuro che la gente, purtroppo come succede sempre, sapendolo anziché andare di lì, chi si occupa di queste cose è un territorio che puoi fare quello che vuoi, nel senso ci sono possibilità anche di lite eccetera di fare quello che vuoi, perché è una zona speciale, non posso dire qua che cosa si tratta, c'è lo spazio, non devi fare altro che prendere e mettere l'antenna, perfettamente in piano il territorio, non c'è nessun problema con ingressi separati eccetera eccetera, è raggiungibile immediatamente senza bisogno di andare in territori vari, mulattieri o cose del genere, c'è tutto a disposizione. Chiedi un pochettino se c'è qualche contatto, dico radio private non va bene perché c'è Monteoro, è un po' più in alto ed è più favorevole, questo va benissimo per la telefonia e copre un bacino enorme di abitanti. Sì, ma non è proprio di lì, diciamo un po' più avanti, tu fai riferimento, lo sai dove è Bricome? Diciamo tu fai degli incontri, diciamo da Losciano in Italia saranno, fai 500 metri, 600 metri di lì il territorio, non ti dico la direzione, però fai conto più avanti sui 500-600 metri in linea d'aria. Comunque il mio numero per qualunque informazione eventuale ce l'ha Angelino, non ci sono problemi se devi dare qualche informazione per non parlare qua in radio, magari ti posso dire cose molto più specifiche, perché a me non va a parlarne qua che ascoltano tutti, parliamo, tanto non c'è niente da nascondere, però è bene parlarne a voce direttamente, così ti dico tanti particolari che qua non mi va a dire, lo dici Angelino, se mi vuoi chiamare, invece sono Roberto, quello di Alghero, che ci siamo sentiti, abbiamo lo stesso nome tra l'altro, per cui mi ricordo benissimo. Se c'è qualche novità eventualmente, ma ripeto, senza gratis, diciamo, pagando il giusto disturbo. Allora faccio così, Mario, è più semplice, Mario, e parliamo con Angelino un attimino, quando ciò gli dico di darmi il tuo numero, che mi ha autorizzato tu naturalmente, perché prima è sempre meglio chiedere, dopodiché poi ci sentiamo con calma e facciamo un discorsettino, così si può parlare di cose più dettagliate, perché qua non posso dirti dei particolari che magari potrebbero essere interessanti per l'eventuale persona interessata, anche okay, non c'è problema, ok, adesso siccome abbiamo un po' monopolizzato direi di lasciare un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare, avanti su 10. Oh Roberto, come ti sembra alla fine il camper? Certo, una bella beta, ma me l'avevate fatto vedere, l'ho visto da fuori, sono anche entrato dentro, la cosa bella è averla attaccata alla macchina, è una cosa spaventosa. Sì, infatti prima l'abbiamo pensato alla macchina, l'abbiamo attaccato. È una bestia, davanti non l'avevo visto, eh? La bandiera americana, c'è, bello, bello, cacchio, è una cosa enorme, mai vista una cosa. Lo so, è gigantesca. Sì, no, non ce n'è, come ha detto tuo padre, forse è l'unico che c'è in Italia, quel tipo di cosa. Sì, tutte le altre praticamente sono europee, sono per cassoni piccoli, tipo per il Volkswagen, per la, sono piccole tipo per la Amarok, per Toyota, per il Nissan, non ce n'è quindi grandi. No, non esiste, cioè qua stiamo parlando di cose, è come paragone una 500 a un monovolume, è una cosa spettacolare come dimensioni, come ingombro, e se non è un mezzo di quelle caratteristiche che avete voi, solo con una motrice di camion puoi tirare su una cosa del genere. Lo so, infatti c'è quello che c'è, è studiato prima di Saverba, lei messa sopra quello del cassone, praticamente aveva la grandezza del cassone di quello rosso, di quello bordeaux, e infatti puntava un bel fuori e di poco si penna la macchina. C'è ancora comunque Roberto D'Alghero, te lo rilancio, avanti Roberto per Riccardo. Sì, grazie. Io tra poco vado, comunque ti ringrazio per tuo essere, una bella chiacchierata, è stata molto interessante. Ti auguro un buon pranzo, un buon corretti, dai, buona, se non ci sentiamo il pomeriggio che sicuramente ci sarò, alle prossime. Ciao, avanti Riccardo. Ok, ciao Roberto, buona carica, buon tutto, a più tardi, se ci sei dopo che hai mangiato, verso le 2, una e mezza alle 2, spero di trovarti a te o a Angelino a fare quella prova. Ciao. Prendiamo di nuovo 10, se nel frattempo è entrato qualcosa, c'era Angelino che era, forse si è parlato con Sandro, e magari sono da altre parti. Vai Riccardo. Va bene, come ho detto, sono qui in ascolto, comunque posso parlare, chiamando il camper che c'erano presenti alcuni fusibili e stiamo risolvendo. L'importante è che la motrice sia bella, la motrice, la cellula sia ben attaccata al fuoristrada, ossia che non la perdete, quello legate bene e tutto. Quella gli attacchi davanti e dietro. sei. No, abbiamo la fatta vedere Tobago, è una cosa allucinante quanto è grande. Non mi immaginavo una cosa col matrimoniale in coso, in mansarda, poi dopo due letti, letto, il bagno separato con coso, con la doccia, bellissimo, mai visto una cosa così grande come cellula separata. Lo so, infatti è l'unico che abbiamo trovato in Italia per cercare quella cellula. Sì, però è una casa viaggiante, smontabile tra l'altro. Ok, quindi sei già organizzato quei baracchini, dai, almeno sei a coperto oggi. Che poi tra l'altro puoi portarlo fuori il microfono, ti metti una sedietta fuori, se c'è nel caldo dentro la macchina ti siedi fuori, ti allunghi un po' il microfono. Infatti, sì, do un bel caldo nella cellula, dobbiamo mettere prima di partire l'aria condizionata, così quando arriviamo c'è già un po' di fresco quando entriamo, e comunque spero che vada tutto bene. Sì, a Puglia deve andare bene per forza, ci mancherebbe. Ok, mettiti magari il baracchino, quello che rende più di tutti, quello che spinge un po' di più. Sì, praticamente il letto di esce con una decina di watt. E il tornado perché? Con quanto è? Il tornado non l'ho controllato, è in macchina e dopo col rotmetro, wattmetro me lo controllo. Ma l'altro giorno quando stavamo ascoltando, ricordami bene, non mi ricordo se era il fuoristrada quello che ci ha attaccato il camper adesso o l'altro, che quando tu stavi parlando ce ne siamo andati con tuo padre Fabrizio ad ascoltare in macchina. Qual è il fuoristrada che ci avete attaccato adesso la cellula? Sì, è quello che è il tornado. Quello è un bel baracchino, cavolo. Lo so, è il 4x5, il tornado più moderno di tutti, con più funzioni, invece ho anche il 34S, però ha meno cose, tipo non puoi andare sui canali alfa, non ha il CW, ha diverse cose in meno, e invece il 4x5 è completo. Vabbè, tanto siamo già quattro gatti su canale 10, CW non ci va nessuno, canale alfa peggio che mai, l'importante è che spinga bene la radio, che funzioni bene il baracchino, ci abbia quei 40 canali e ce ne per i pucci, poi se devi fare altri tipi di lavori ti cerchi un altro tipo di apparato sicuramente. Ma quelle antenne, quando mettete la cellula, le antenne che c'hai sul cassone le togliete, Erika? Sì, quelle sul cassone sì, lasciamo quella che c'è davanti, praticamente accendiamo con quella, e poi in cellula abbiamo risolto, abbiamo visto che lì andava male un po' metterla, abbiamo messo la cellula un po' in alto e con un buon piano di massa. Perché il problema, insomma, la cellula è in resina, è un materiale isolante, non è un conduttore la resina, per cui se non è un bel piano di massa l'antenna non irradia. Ma tu scusa un attimino, il cavo di quell'antenna che avevi dietro in coda, dove lo fai passare? Quale? Dietro nella scaletta in coda dove c'è l'ingresso della cellula, ci avevi un'antenna? Dalla porta gli faccio passare il cavo. Ma non puoi chiudere la porta? Di solito quando lo uso lascio la porta aperta che tanto si era caldo, invece di notte lascio il TL fuori adagiato alla scala. Ehi, stai attento la notte, se piove coso, se c'è umidità si ossida quell'antenna, magari fai in modo di metterci una passata di nastro o qualcosa, nastro isolante, in modo che non ci cada l'umidità dentro, almeno un po' la bruttisci. E poi mi hai detto, hai messo un'altra antenna nell'abitacolo del fuoristrada? Quelle che hai visto, una è rimasta, quelle antenne, praticamente sul cassone c'erano due antenne, una l'ho tolta e una l'ho lasciata, quindi ho due antenne, una in cellula e una nel fuoristrada. Quindi una è rimasta nel fuoristrada, meno male, perché nel fuoristrada per dire puoi trasmettere direttamente dalla cabina del fuoristrada. Sì. No, lascia quella lì, no, va bene così, poi vai la notte, se ti vuoi divertire te ne vai io da un'altra parte a provare, a fare delle comparazioni, ma con quell'antenna Turbo 2001 quella già spinge, se è bella efficiente come massa e cosa, è una bella antenna. Lo so, infatti sto pensando stasera che c'è molta propagazione come stamattina, che c'era quello di Lecce, voglio fare il DX con la Spagna. Di lì a voi, sei ben aperto, aspetta, forse ho sentito qualcuno, avanti 10 che vuole entrare. comunque mi ascolta a verità con l'altra antenna. Vabbè, sono contento, è venuto Claudio, un quarto d'ora, 10 minuti, abbiamo fatto tutto, perché l'antenna era soltanto da sollevarla in cima al palo e mettere l'altro radiale del coso. Ho visto che le stazionali sono molto basse, perché prima ce le avevo altissime, e c'era il piantone radiale attaccato al palo, faceva la massa, nel senso mi cambiava l'impedenza. Adesso invece è superato il coso e va benissimo, sono 1,4 le stazionali, in 27 senza accordatore va più che bene. Ok, Roberto, volevo chiedere, ma la trovo, no? Una multipanda si può usare per quello che ho, quel baracchino, a parlare così, apparato? Certo che si può usare, tieni presente che l'ottimale è sempre avere una antenna dedicata per quella banda di frequenze. Più stretta la banda di frequenze e più è performante l'antenna, per dire, se devi andare da 88-108 ti prende un'antenna che faccia 88-108, io sto parlando frequenze di radio private. Poi se devi fare 40 metri è meglio avere un'antenna specifica. Poi ci sono le multibanda che ti fanno, è un compromesso, hanno delle bobine dentro all'interno dei condensatori eccetera eccetera, e fanno un compromesso, promesso, si aumenta la larghezza di banda, però la resa non è come un'antenna dedicata per quella frequenza lì accordata in quella cosa, su quella frequenza. Comunque la multibanda, tiene presente quella che c'è, è un'antenna di 9 metri e non è uno scherzo, prende molto vento, e la usi per le HF, io l'ho fatta per le HF più che altro per ascoltare, e ho visto che c'è un grandissimo guadagno da 7 a 9 passo rispetto alla Mantova, per cui è già una cosa molto buona. E la Mantova è specifica per la banda dei 11 metri, della 27, per cui sicuramente è molto meglio la multibanda, dipende da cosa devi fare. Se poi devi usare degli scanner e delle cose del genere, mettiti una tipo discone, di quelle antenne che hanno, per dire, partono da 30 a 40 MHz fino a salire a 1300, e vanno bene per ascoltare anche frequenze più alte, le V e le U. No, mi interessava per le HF ascoltare con la multibanda da 0 a 30 più o meno con quell'apparato, e me la mettevo tutto che mi sto organizzando dentro, e così facevo un altro bunker, mi organizzavo tutto, dovevo mettere i fogli, l'antenna, un'altra antenna, e organizzare, e quindi volevo chiedere come andava la multibanda per ascoltare da 0 a 30. Sicuramente va meglio della Mantova, però anche la Mantova non è così scarsa, ti ripeto, io ascolto tutto anche con la Mantova. Naturalmente se devi trasmettere è diverso, perché in trasmissione devi accordare, ci vuole un buon accordatore d'antenna che riesca a sistemarti un po' tutto, ma per ascoltare va bene anche così. Naturalmente non avrai le performance dell'antenna dedicata, però io con la Mantova ascoltavo tutto, da 0 a 30 ascoltavo tutto. Poi con questa antenna un po' più aperta, diciamo, perché la Mantova fa 26-28 come larghezza di banda, per cui più scendi e più perde, mentre quell'altra con degli accoppiamenti particolari, delle bobine eccetera eccetera, riesce a fare una larghezza più banda, di banda un po' più larga, e ti permette di ascoltare un po' meglio. Soprattutto se presente che le HF con le bande lì le ascolti prevalentemente di notte, per cui ci sono potenze esorbitanti, e ci hanno quelle stazioni lì e le ascolti anche con un antennino piccolo, dai. Capito, sì, perché volevo ascoltare anche sotto il basso 1, proprio il basso, frequenze basse, e volevo ascoltarmi perché so che ci sono roba interessante nelle frequenze basse, tipo 1, 2, 3 MHz. Sì, a voglia c'è di tutto, si sta anche di cercare, guarda, molte volte se ti metti a fare, per dire, la banda dei 60 metri, dei 160 metri, sai, mezz'ora per sentire, perché uno si accavalla sopra l'altro, dai, diciamo dai 1000 MHz in su, e 1000 MHz, 1000 kHz, da 1,2 MHz in su fino ai 3 MHz, lì c'è tante stazioni di tutto il mondo, ascolti l'impossibile, una sopra l'altra, ti sposti un pochettino e ti passa l'altra, ci sono molti battimenti una con l'altra stazione. Ok. E io a adesso oggi è una confusione totale, infatti cioè, c'è confusione, prende attacco l'altra antenna, mi abbassa un po' i segnali, così questi spagnoli non mi danno fastidio. Per il momento riesco a tirare fuori tutti, ma poco fa c'era gente che arrivava a 9:10, quello di lei ce l'hai visto, 9:15 arrivava, vabbè era uno, però se iniziano a venire uno e l'altro sopra succede un macello e quei segnali tutti quelli più bassi non riusciamo a sentire. Quello di letto arrivava un gas forte e poi di tutto questa settimana, la terza settimana era pieno di gente, era quel segnale che si cavallava tutto, non capiva più niente, e infatti io la faccio stare, stavo aspettando che stava facendo un po' le acque. Che ripresenta poi questi baracchini di vecchia generazione, questi vintage, sono tutti, hanno sistemi di ricezione diciamo un po' antiquati, non hanno dei filtri selettivi, per cui ti porta tutta la sporcizia di quello che c'è, ci sono segnali forti che poi ti schiacciano con gli altri, non sono molto selettivi e sensibili. Quando avrai un apparato un po' più serio come quello che stavi provando, noterai la differenza rispetto al baracchino normale, sarà molto più facile ascoltare perché sono un po' più stretti come larghezza di banda, diciamo selettività, sono molto stretti, per cui riesci a tirare fuori dei segnali che col baracchino normale molte volte, a meno che non c'è un grande baracchino, riesci a tirare fuori. Sì, infatti sto pensando sempre più in alto, da un baracchino normale mi sto spostando a stazioni basse, da stazioni basse mi sto spostando ad apparecchi più alti tipo il K e adesso voglio sempre di più. Tutto piano piano, gratamente, tutto in base alle proprie necessità, è inutile che ti prendi un apparato ricevitore da laboratorio super professionale e poi magari lo tieni spento. Tutto quello che devi fare deve essere fatto con cognizione di causa e senza buttarci i soldi in tante cose che poi alla fine non utilizzi. Tieniti le cose che ti servono, poche ma buone. Poi se ti vuoi fare qualche cosa tipo vetrina, ci vuoi mettere qualche apparecchietto così per fare un po' di scena, è bello lo stesso. Però prenditi un apparato, tieniti quello lì, ti trovi giusti abbinamenti come ho fatto io e non toccare nient'altro. Poi un domani quando ci sarà qualcosa di meglio se ne parlerà. È inutile poi stare prendendo uno oggi, uno domani, cosa. Hai visto? C'è un sacco di gente scontenta che ogni giorno sta cambiando baracchino, microfono, cosa, e poi alla fine i risultati sono sempre mediocri. L'ho visto. No, comunque tra esso per dirti così mi prenderò. Ah, Roberto! Sì, un attimo. Poi per adesso mi va bene, intanto come ho detto mi faccio un po' di radioascolto da 0 a 30 per capire come andarsi tra i radioamatori e a vedere, perché se non, come dire, se ne vuole ancora un po' di anni, però certo su essere un uomo. Ok, avanti Giulio. Ciao Roberto, ciao Riccardo. Vabbè, dimmi come segnale, fa la cortesia, e dimmi se stai usando sempre la Mantova oppure un'altra antenna. Segnale 9:20, ma hai cambiato antenna perché? Ho messo quella originale, adesso la Game Master originale. Hai messo la Game Master originale, però non so, a parità di potenza, tutto uguale. Appunto, mi sembra che qualcosina in più, almeno come guadagno di ricezione ce l'ho qualcosina in più. Però è sempre alla stessa altezza, è sempre nel posto basso, non è in alto, capito? Sembra qualche leggero miglioramento di segnale, vedo. 9:20 spaccato, arrivi con i picchi, mentre prima arrivavi un po' di meno, diciamo 9:18, dai, faccio più o meno così. Infatti anche il tuo segnale qualche tacca in più ce l'ha, qualche punto S in più, senz'altro. Avanti, Riccardi, tu come mi ascolti? Benissimo, comunque ti saluto Dollaro. Stai andando benissimo, comunque. Ok, tu sei col baracchino, vero Ricca? Sì, adesso praticamente sono con un stazione base e un palmare, però adesso mi voglio prendere, come ho detto, ho già preso un MP5 perché questo non ha radio con questo palmare. Vabbè, io già ti sento bene, la verità, non è un problema. Comunque, se cambi il microfono, chiaramente va ancora meglio, non ci sono dubbi, però io ti sento benissimo, chiaro, forte, per cui è anche buono, molto buono il segnale. Va bene. Qualcosina ho guadagnato, Roberto. Penso, perlomeno guardando lo smittere dal tuo segnale, qualcosina l'ho guadagnato. però è sempre in basso, la dovrei spostare dall'altra parte e metterla in alto, ma adesso non è il caso, dai, mi accontento così, intanto è inutile, anche perché ce l'ho nel terrazzo così, no, e dunque è a portata di mano e mi viene anche meglio, capito Roberto? Ehi, adesso fai una cosa Giulio, io sto uscendo con l'antenna la Mantova 1, memorizza questo segnale e poi ti faccio la computazione con l'altra antenna multibanda, mi dici quanti punti hai se perdo. Ok, d'accordo, dai, proviamo, prova a vedere, avete parlato insieme a Riccardo comunque, avanti con Roberto. Allora, questa è l'antenna solita, la Mantova 1, memorizza questo segnale, adesso commuto l'altra antenna. Questa è l'altra antenna, la multibanda, dimmi se cambia qualcosa. Sì, questa è più bassa, questa è più basso il segnale, è di un bel po' anche, però arriva benissimo ugualmente, perché con questa sei oltre il 9, 9,2, una cosa così, 9,2, 9,3, mentre con l'altra sei a 9,12. Quindi 10 punti circa per lo dico. Allora, e vedete qua le stazionarie sono un po' più alte, sono circa 1,4, l'altra è 1,1 di stazionarie, non è un'antenna dedicata per la 27, è un'antenna extra 0,30, comunque già qualcosa, perché l'altro giorno era, come si chiama, appoggiata, il piantone era appoggiato sull'antenna per cui irradiava anche il palo. Adesso le stazionarie mi si sono abbassate tantissimo e diciamo sono contento, anche nella 27 riesce a irradiare. Mi dà un rapporto discreto, Santiago 9 per quelli punti va più che bene. Ok, rimetto la sua antenna, adesso sono con la Mantova. Ok, vabbè, sì, va benissimo, non bene, benissimo, va altro che alla grande proprio. Dimmi una cosa, anche la radio è rimasta la stessa la mia, o c'è qualche piccola variante? Tu, è la tua voce naturale, come piace a me la radio, giusta, pulita, senza disturbi, senza troppe amplificazioni, una radio bella, alta fedeltà. Io faccio sempre il discorso, una persona la conosco dal vivo, questa è la tua voce, è bella amplificata, chiara e pulita. Ok, sì, l'MB più 4 a 40 cm dalla bocca, sto usando l'MB più 4, per cui vedo che va molto bene, anche dai picchi di modulazione mi sembrano abbastanza buoni. Va bene, dai. Avanti Riccardi. Sì, va bene. Comunque, Roberta, non sapere bene anche cambiare un po' il segnale con la multibanda dalle mie parti. Sì, sì, va bene, naturalmente non è fatta per questo tipo di frequenze. Io ho notato, Giulio, le volevo fare trasferire la prova, le HF hanno migliorato, erano con l'antenna che non era accordata, tiene presente, appoggiata e non irradiava perché il palo disturbava sui radialini, passavano da 7 a 9 i segnali degli HF rispetto alla Mantova. La Mantova era 7 e le HF erano 9 e non è poco. E figurati, l'antenna non era accordata. Adesso che l'antenna irradia, penso che abbia migliorato ancora di più. Ma sì, sicuramente, Roberto. No, ma ripeto, va benissimo, altro che caspita, per una multibanda arrivare qua 9,2, quasi 9,5 praticamente, che poi quando moduli li superi anche, va più che bene, alla grande, altro che se va bene. Se magari fossero tutti così i segnali, invece qua alle volte ne arrivano Santiago 4, 3, 2 anche, e niente radio, non riesco a capire. Vabbè, non è che mi interessa il segnale alto, ma mi interessa la radio, che poi la tua radio è eccezionale, è una delle migliori, se non addirittura per i miei gusti la migliore, figurati. Ehi, ok, grazie dei complimenti, insomma mi fai arrossire. Anche Riccardino c'ha una bellissima radio, mi piace, pulita la tua. Dai, ce ne sono radio interessanti qua. Purtroppo non si critica perché ognuno fa quello che può, però ci sono molte radio che sono troppo sparate, troppo amplificate, troppo da combattimento, diciamo. Però in città vanno bene le radio tranquille e poi se ti vuoi far sentire all'attacchi eco, doppio modulatore e tutte le altre cose che a me non piacciono, tra parentesi. Mi piace la radio tranquilla, che non mi devo spaccare i timpani o abbassare troppo la cosa, oppure dire chi sei, non ti capisco, tipo quando parli con un megafono, e ce n'è più di una di queste. Dai. Però non si critica mai, si accetta tutto, il mondo è bello perché è vario, come diceva una grande persona. Vai Riccardi. Ehi, ti volevo chiedere, ma tu cosa ne pensi più o meno, lo so che ce l'ho io, però se lo sapevi anche tu, dell'Expander 500? Nessone 500 della Tanne, non l'ho mai avuto, però sono di quei microfoni eccezionali adattati a radio che vanno bene, però l'ha provato sul sul K purtroppo non andava come dovrebbe andare, e, diciamo, è sprecato quel microfono sul K. Si riesce a farlo andare, ma non è l'ottimale, l'ottimus. Magari sono proprio su un altro baracchino da 3 lire e c'è meglio il K per certi versi. No, ma per i vintage era per sapere perché ha 4 pin. Sì, ha detto bene, sugli apparati di vecchia generazione sicuramente è un gran microfono, come il più 3, il più 2, sono dei microfoni di assoluta qualità, però vale sul K che funziona con un diverso tipo di alimentazione, eccetera, un'impedenza particolare, eccetera, non è adatto, cioè dovresti fare troppi lavori, alla fine cosa fai? Stai modificando un microfono per adattarlo, quando tanto vale lasciare quello che c'è. Però l'altro giorno con Giulio ha fatto una semplice modifica di impedenza, Giulio ha dato una prova e è riuscito a fare andare il Turner più 3, ha abbassato un po' l'impedenza della resistenza in parallelo e sei riusciti Claudio e Giulio in particolare a renderlo un pochettino più performante. Però sono microfoni fatti per altre cose. Qua l'MB più 4 di Giulio, l'hai visto, sta uscendo alla grande con un apparato di qualità, magari lo provi su un altro baracchino e non esce. Ho capito. Va bene, e non so neanche se abbiamo risolto, perché c'è Babbo che stava operando. Ehi, dai, speriamo bene, io rimango ancora qualche minutino, che è troppo come chiamano, per mangiare la pappa. Ok, anch'io tra un po' vado vado a vedere, tra il resto altri 5 minuti che vado a vedere se ha risolto. Stranamente non c'è nessuno oggi. Giulio, riprenditi mai. Ok, vabbè. Sì, ma in effetti è così. Il microfono rimbombante, cioè, o meglio amplificato, è bello quando è chiaro, indubbiamente. Se poi è messo male come qualità del radio non mi piace. Però io, sinceramente, parlando, a me mi piace la radio che non sia troppo rimbombante, che non sia troppo forte. È così come la tua, sinceramente. Premesso che radio belle ce ne sono tantissime, incominciando a quella di Claudio, che è eccezionale, a quello tu gli dai un trombone o quello di bue, è sempre quella la radio, è sempre bellissima. Lui le piace modulare con una certa potenza e va bene così, ci mancherebbe altro. Io mi regolo dal volume della radio, sempre quello. Però a certe volte ci sono certe radio, per carità, fanno probabilmente pena, poi non riesco a capire una cosa, per quale motivo uno non si attrezza di antenna, ma quando è la prima cosa da mettere in una stazione non è l'antenna. L'antenna deve essere il punto cardine della qualità della stazione stessa, perché se no non riesce ad arrivare, come qualcuno da quel paese, che arriva tutto quanto bisastrato dopo 40 anni e oltre, non è possibile. Ok, dai, condivido tutto, Giulio. Io vi devo lasciare, adesso vado a mangiare. Ciao Giulio, ben sentito, sempre un piacere. Ciao Riccardino a tutti gli eventuali amici in ascolto. Dai, io faccio corretti magari più tardi. Riccardi, mandami il messaggio quando stai partendo, che ti voglio accompagnare a vedere dove arrivo. Ok, vi lascio, ciao ciao. Ma ciao Roberto, comunque. Sì, penso che fino alla forza già si arriva almeno, perché arrivavo anche a Claudio. Ok, ciao Roberto. Un pranzo, alle prossime, ci sentiamo stasera, se coincide, ciao ciao, avanti Rica. Come se fosse Roberto, anch'io vado, guardo se possono, perché vado a avere il camper, quindi devo anche sistemare le due cose prima di partire. Ciao Giulio, ciao Roberto, ci vediamo più tardi quando parto. Ok, ciao Riccardi, a stasera se coincide, dai, ci sentiamo, ciao ciao. A Tito, mi hermano de la exclusiva visual de la Sardinia, adelante. Hola, atento mi hermano de Vascucia, Vigila de la Sardinia, adelante, me lo comprendido, por favor. Atento mi hermano de Vascucia, la Sardinia, adelante. Hola, atento mi hermano de Vascucia, la Sardinia, adelante. Gianni. Oia. Ciao, già. Cosa stai usando con il microfono? È abbastanza cupo, o forse la potenza? Guarda così che l'ha abbassato. Ti è preoccupato male già, non è la tua radio, dai, funziona, sì, quello sì. Già si capisce comunque, preoccupa. Vabbè, non fa niente. Ci metterò un altro microfono. Ok. Ascolta, ah vabbè, dai, stai facendo quelle prove, no, niente, niente. Ti volevo chiedere come stavo arrivando adesso di segnale, che ho messo la game master originale, però sempre alla stessa altezza, allo stesso posto, nella stessa posizione, non l'ho messo dall'altra parte, non ho il tubo adatto per metterlo dall'altra parte. E con questo non te lo do perché faccio lo smicco. Ho capito, no, con Garasi me lo devi dare, che quello sicuramente è migliore. No, ma che microfono stai usando? Quello che hai da due, ne hai fatto uno? No, questo è l'MV più 5. E cazzo, è così cupo, come mai? L'MV più 5 è così cupo, ma cupo forte, Sì, vabbè, aspetta che chiudo le modulazioni. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. È un po' migliorato, però non è la tua radio quella bella chiara, squillante. È sempre cupa. Sì, vabbè, aspetta che attacco là. Ok, prova, già. Gianni, prova adesso, Gianni, che forse il problema era il mio. Gianni, prova, che avevo i filtri attaccati, non me ne sono accorto. Gianni, rimetti il cover con quel microfono che voi già sentivo, che avevo i filtri, la colpa era mia probabilmente, del fatto che era troppo cupa. Cosa, Giulio? Ho detto che forse la colpa era la mia, rimettila a vedere l'altro già, che avevo i filtri, non me ne ero accorto, perché ero in banda laterale, avevo i filtri e non me ne ero accorto e ti sentivo cupo, forse per quello. Se vuoi riprovare. 9.25 qua, Giulio. 9.25 già. 9.20 qua, Giulio, buongiorno, ciao Gianni, perché stai urlando? Ok, ciao Tino, anche tu più o meno quella Santiago, avanti ti. Ciao Giulio, buongiorno, buona giornata a tutti, dai. No, sto provando un'altra radio, Giulio, un President Lincoln rimessato al nuovo, diciamo. Ciao Tino. Ok, sì, già va bene, sì. No, ho messo la originale, la Game Master originale, però è sempre nello stesso punto, non l'ho spostata nel punto più alto, è sempre nello stesso punto o tiro, perché non ho ancora i tubi adatti, perché un tubo è bloccato, non riesco a farlo scorrere uno dentro l'altro. Ciao Tino. Ciao, un saluto da tutti, un saluto generale a tutti quelli che sono in frequenza. Bene, dai, mi devo allontanare, dai, sono entrato giusto a salutare, magari se coincide più tardi, rilancio il mic a Gianni e niente, aspetto un pochino e poi vado via, che devo fare delle cose qua in stazione, devo cercare di mettere un po' di ordine, Giulio, cerca di capirmi qua, quando si provano delle radio si rivoluziona un po' il tutto. Giulio. Sì, ciao Tino, scusa che salutiamo Tino che sta chiudendo, dai, che ha da fare, avanti qua. Ciao anche a Tino, dai, buongiorno. Ascolta, ho cambiato posizione della mantova, l'ho letto, non c'è più su. Il segnale è sempre uguale, c'è qualche variazione, va bene? Sì, è uguale il segnale, ho qua. Anch'io adesso ho messo la Game Master originale, però è sempre lo stesso punto, è sempre la stessa posizione o qua, perché non ho il tubo adatto per poterlo mettere dall'altra parte, perché un tubo non mi scorre dentro l'altro perché è arrugginito, ho messo di tutto, CRC, un sacco di cose e non sono riuscito a farlo scorrere, dunque dovrò prendere un altro tubo per poterla mettere in alto dove c'era una volta la mantova turbo. Ho capito, va bene, non è la mia, perfetta, vulcanizzata tutta, pulita, addirittura anche il radiale ho tolto, viti in acciaio c'erano, adesso l'ho tutta pulita, messa a posto, manutenzionata, comunque l'ho spostata, non c'è più sul lato che ti avevo letto, è dalla parte della mia mansarda, ok, Ok, va bene, dai, se va bene allora, ottimo lavoro. Ok, grazie Giulia, ci sentiamo più tardi, metto a posto. Ok, qua, d'accordo, dai. Comunque qualche punto di segnale lo credo di aver guadagnato almeno in ricezione, e poi anche Gianni mi ha dato un segnale abbastanza buono, anche Tino. Adesso vediamo, vabbè, comunque la differenza non è poi tanta, quella che avevo fatto io e quella originale, suppongo che sia così, anche perché avevo fatto le stesse misure, per cui non poteva esserci troppa differenza. Va bene, dai, avanti Gianni. Sì, adesso guarda a vedere se c'è per No, va bene già, no, poc'anzi ero io, la colpa era la mia, perché siccome stavo ascoltando in banda laterale sui canali alti, stavo ascoltando, avevo messo i filtri, e dunque per quello che ti sentivo cupo, non mi ero reso conto che avevo i filtri, capito? Ecco perché ti sentivo cupo già. Questo è il 3009 con MB più 5. E va benissimo, è una bomba, va benissimo. Kappa, dai. Quindi non c'è manco bisogno di aprire la LC, vero? Cosa hai detto già? Non c'è bisogno di aprire la LC, sembra che vada bene anche così. Ah no, cosa per fare? Ma che te lo fa fare? Va benissimo già, cosa lascialo stare così originale, cosa che va meglio? È una bomba, cosa fai? Cosa te ne fai? Guarda, io ti saluto che sto cucinando i piselli, se no mi si bruciano più. Piselli con la pacetta affumicata. Va bene, dai, a stasera, ciao già. Buon pranzo, allora ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao a tutti, ciao Claudio se sei ancora all'ascolto, e ciao Tino se sei ancora all'ascolto. Anche per me allora scendo giù, tanto è quasi l'una meno 5 per l'esattezza, per cui siamo vicino all'ora del pranzo. Vabbè, ciao ciao già di nuovo. Ciao Giulio, ciao Tino, ciao Claudio degli ascoltoni, dai, ci sentiamo. Giulio, ancora ci sei? Sì, ci sono qua. Guarda il segnale a vedere se va meglio, vero? Con poca potenza? Sì, è 9.20 qua. Manca un cc proprio niente per arrivare a 9.20, ma siamo lì, a 9.20 sì, praticamente. Ok, dai, va bene, ok, dai, allora salgo su perché devo ancora mettere dei tiranti. Ok, ci sentiamo, grazie. Ok, ciao qua, a stasera, ciao ciao, chiudo, vado per il pranzo, ciao. Avete parlato in due, ciao Giulio, chi è che ha parlato? Radio sono, guarda, qui arrivi fortissimo, Santiago 7, Radio 3. Perfetto Fabio, dai, ok. No, ho spostato la mantola, te l'ho detto, tutta da una parte, l'ho messa dall'altra perché ero sul lato che non è il mio. Allora me l'ho messa dalla mia parte dove ci sono le direttive, dai, ok. Suppongo che non sia cambiato niente, va bene. Il discorso è che Santiago 7 Radio 3 ma su tutti i canali però. Ah! sono sempre con quell'antenna là, dai. Adesso cambio, metto la verticale, cappa. Buon lavoro, saluti a tutti, io rimando in ascolto, ciao a tutti. Ciao Fabio, grazie del controllo, dai, che devo salire ancora su, devo mettere un paio di tiranti che è un po' più alta, in un'altra posizione, non mi fido, dai. Ciao Fabio, grazie, ciao ciao. Sì, chi è? Sto scendendo le stazionali, Gianni, ma sei Santiago 7 qua, quindi presumo che devi fare qualche lavoro, capito? Ok, dai, che devo salire sul tetto che non ho finito ancora. Ciao Gianni.